Tempo di Sport con Carlo Genta. Buffon ha talmente tanta forza e personalità che riesce sicuramente a nascondere magari dei momenti di disagio, ma sono convinto che anche i più forti possono essere anche tanto tanto sensibili. Buongiorno a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Pietro Lacorte in regia. È chiaro che se il buongiorno si vede dal mattino sarà un mese o forse un'estate intera di tempesta. Saluto e ringrazio Enrico Currò, inviato di Repubblica, il nostro amico. Ciao Enrico. Ciao Carlo. Non sarà facile, Non sarà facile l'europeo, non sarà facile l'estate e Prandelli ieri ha detto ma guardate che se disturbiamo possiamo anche evitare. Ma guarda, io penso che non sia facile certamente, ma innanzitutto penso che si trascuri un fatto che chiaramente passa in secondo piano con quello che succede in questi giorni, cioè che l'europeo dell'Italia non è facile prima di tutto dal punto di vista tecnico, visto che è capitato in un girone che lì per lì avevamo sottovalutato, ma che adesso via via che l'europeo si avvicina appare in tutta la sua complessità, perché la Spagna è la squadra più forte del mondo, almeno in partenza. La Croazia, tutti adesso si stanno accorgendo che non è una squadra morbida, tutt'altro. E l'Irlanda di Trapattoni, è un avversario che bisogna battere sul campo e la cosa riesce particolarmente difficile vista l'organizzazione difensiva. Io ricordo che l'Italia di Prandelli ha giocato piuttosto bene finora, ha ottenuto buoni risultati, però ha incontrato grandi difficoltà solo con le squadre di organizzazione difensiva superiore alla media, e l'Irlanda appartiene a queste. Fatte queste premesse è chiaro che ripartiamo al discorso che facevi tu, cioè l'europeo si preannuncia difficile per altri motivi. No, ma infatti sentendoti comunque parlare delle difficoltà che l'Italia incontrerà sul campo, a me sembrava quasi un sogno, almeno fossero difficoltà di quel tipo, almeno potessimo parlare tutto il giorno e anche scontrarci, anche litigare, anche sognare su difficoltà di quel tipo. La mia sensazione è che le difficoltà pioveranno tutte dall'esterno su questo gruppo e sul calcio italiano. Adesso è inutile tirare in ballo il fatto che nella bufera giochiamo meglio, perché questo rischia di diventare un ritornello anche stucchevole. Sì, penso di sì, l'hanno detto tutti i protagonisti, a cominciare proprio da Buffon, che non è così, o meglio, che può anche essere così, ma che non è il caso di mettersi in certe condizioni. Però quello che vorrei ricordare e sottolineare è che, sia chiaro, non è che però in questa situazione di tempesta i media, che in Italia sembrano i responsabili di qualsiasi cosa di male succeda, siano veramente i colpevoli. A un certo punto il ruolo del giornalista è quello di informare, non possiamo tapparci le orecchie, non possiamo far finta di non registrare quello che succede. Quello che succede non credo sia colpa dei giornalisti, perché c'è un po' questo clima da trincea che è tipico delle nazionali italiane. Ci sono stati degli eccessi, ci sono state delle esagerazioni, è possibile anche che ci siano stati degli errori, però da qui a dire che la tempesta che si sta scatenando attorno al calcio italiano e nello specifico attorno alla nazionale, perché in questo momento è la nazionale che gioca ed è la nazionale che è lambita da questo scandalo, direi che insomma ce ne vuole per dire che è colpa dei media. Insomma, tu cosa dici? Hai parlato con Criscito, intervista comparsa su Repubblica ieri. Sentiamo una battuta di Criscito e poi ti chiederò come l'hai trovato. Lui non l'ha presa benissimo, come racconta. Ma io conoscenza no, perché comunque tra tifoseria e giocatori c'è sempre rapporto, quando c'è da parlare si parla. Io con la tifoseria del Genoa ho un grandissimo rapporto, sono stato tantissimi anni lì ed è normale che se vogliono un chiarimento io lo do, perché sono una persona intelligente e di sicuro non mi vado a mischiare in situazioni non belle. Come hai trovato Criscito? Criscito una persona che, se non è un bugiardo matricolato, e non vedo perché dovremmo per forza pensare questo, è veramente dispiaciuto e veramente offeso per quello che gli è successo. Lui dice: io sono assolutamente innocente, non ho fatto nulla e non vedo per quale motivo devo passare io per capo espiatorio. Sinceramente io mi sono letto una parte delle carte, perché altre arriveranno, che riguardano l'inchiesta che coinvolge molto marginalmente anche Criscito. Da quello che ho letto, io l'atteggiamento di Criscito un pochino lo capisco, sì. Nel senso che non mi pare, per quello che ho letto, ripeto, non voglio assolutamente, i fatti poi possono sempre superarci, però da quello che ho letto finora mi sembra che condannare per una foto nella quale, vorrei ricordare, c'è una sequenza di foto e l'aspetto, diciamo così, che è stato condannato dai tanti moralisti che ci sono in questo paese, della frequentazione di Criscito con persone che non avrebbe dovuto frequentare, in particolare faceva riferimento a questo pregiudicato bosniaco trafficante di droga, Altic, che adesso è in carcere. Beh, se riguarda Criscito non è mai a colloquio con Altic, è a colloquio con Sculli, che è un suo compagno di squadra, ed è a colloquio con due capi ultra del Genoa, che può essere discutibile, ma non delituoso. Però lo stesso Criscito mi ha detto una cosa che sinceramente è quella che mi ha colpito di più di tutta l'intervista, perché rimarrà anche al di là dell'episodio specifico, cioè anche al di là del calcio scommesse. Lui ha detto sostanzialmente: non facciamo le verginelle, non siamo ipocriti. I rapporti dei calciatori stretti con gli ultra e i rapporti soprattutto delle società stretti con gli ultra sono una cosa abituale in Italia. Certo. Non tocca a me. Sono un mal costume molto pericoloso. Cioè, non, secondo me, comunque non vale dire sappiamo che funziona così. Bisognerebbe scardinare comunque questi contatti, perché sono qualcosa di perverso, Enrico. Non c'è dubbio, però anche su questo io vorrei precisare una cosa, perché a me il moralismo spiccio non piace. Io dico questo: il movimento ultra, del quale si può dire tutto il male possibile, per certi suoi aspetti deteriori, è in realtà in alcune città, in molte città, in quasi tutte, purtroppo, ed è su questo che dovremmo interrogarci, l'unico momento di aggregazione che hanno alcuni ragazzi. Sì. Questo non sarà sbagliato, ma che si vedano soltanto allo stadio e che si vedano soltanto intorno alla passione per la loro squadra, però è così. Allora, il movimento ultra ha anche degli aspetti che secondo me non sono negativi, ed è questo che bisogna ricordarsi. Poi però esiste, ed è questa la cosa gravissima, in ogni città, sì, in ogni curva, una serie di persone che di fatto fanno gli ultra di professione, esatto, cioè che si arricchiscono, esatto, attraverso il calcio, che attraverso il calcio riescono ad avere degli introiti che sono inimmaginabili per le persone che fanno un lavoro normale, e molto spesso questa cosa avviene perché la curva è una zona franca nella, certo, quale l'ultra può fare tutto quello che vuole, nella quale la polizia non entra e nella normalmente quale la gestione, per esempio, dello spaccio di droga, è questo l'aspetto forse più importante, è in qualche modo la fonte di guadagno, certo, e anche il terreno nel quale uno può trovare i clienti, diciamo così, di questi che non sono dei tifosi, ma no, sono dei criminali comuni, di cui peraltro si conoscono anche nella maggior parte dei casi nomi, cognomi, facce, eccetera, eccetera, perché anche queste sono cose che conosciamo. Enrico, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi. Alla prossima. Buon europeo, sperando che ci sia. Grazie ad Enrico Currò, ci fermiamo per il traffico. Sperando che ci sia, l'europeo ci sarà, l'Italia anche, pure se Prandelli ha detto delle cose, le avrete già sentite, ma le faccio risentire dopo il traffico. È difficile, però noi siamo qui oggi per giocare una partita di calcio e se ci fanno giocare questi europei sicuramente faremo qualcosa di buono per noi, perché abbiamo lavorato, e per i nostri tifosi che aspettano il momento di vedere e di sentire l'inno nazionale. Però come dicevo prima, se si decidesse di non partire non ci sarebbe nessun tipo di dramma. Beh, insomma, potremmo anche non andare se vi fa piacere così. La Spagna potrebbe dunque domenica prossima avere un turno di riposo in un girone zoppo. Ovviamente non si verificherà, però è un'ipotesi non bella ma suggestiva, non bella naturalmente ma suggestiva. Filippo Maria Ricci dalla Spagna, ciao. Buon pomeriggio. Ci crede qualcuno? A un turno di all'inizio dell'europeo zoppo, a un turno di riposo, all'Italia in manette. Lo ricordo, è successo una volta in una Coppa d'Africa nel 1996, quando per motivi politici la Nigeria non ha partecipato. Mi sembra che sia l'ultima volta che mi ricordo una situazione del genere. Noi con i record siamo bravi, eh? Sì, certo, però. Ma lo sai la cosa più divertente che dicono qua? Sì. È che quasi l'abbiamo fatta apposta a fare questo scandalo, perché ogni volta che c'è uno scandalo vinciamo, come nell'82 e nel 2006. Sì, ma noi siamo oltre e diciamo, vabbè, però adesso basta, non enfatizziamo questa cosa perché alla fine succederà. Sì. Mi è piaciuta molto agli spagnoli questa cosa, questa curiosità. Gli spagnoli sono un po' indietro su molte cose. Leggevo quanto hai scritto ieri nelle opinioni della Gazzetta dello Sport, ti cito, in questi giorni in Spagna in tanti hanno elogiato l'Italia per aver preso per le corna il toro delle scommesse. In molti hanno ricordato la nostra politica antidoping e la retrocessione della Juventus 6 anni fa. In Spagna le cose vanno in un altro modo, i peccati ci sono, i peccatori no. Questo scrive Filippo Maria Ricci. Direi che in Spagna sono molto bravi a leggere tra le tue righe, a spazzare la polvere sotto il tappeto. Sì, esatto, questo è quello che curiosamente dopo aver scritto quell'articolo, poi la sera mi sono trovato a cena con il presidente del Consiglio Superiore dello Sport, sì, il ministro, e insomma c'era un certo imbarazzo perché io non ti ha messo il Gutalax, ti ha messo il Gutalax nella pappa, E lui dice sì, ovviamente sulla questione dell'Operazione Galgo in merito lui fa il garantista dicendo no, c'è stato un errore di esecuzione, quindi non potevano fare le intercettazioni, quindi le intercettazioni non sono valide, se non sono valide non si può punire, via dicendo. Aspetta, a monte, spiegami un attimo l'Operazione Galgo rapidamente. Praticamente beccano una grossa trama di doping con figura centrale questa Marta Dominguez, che è una già implicata nell'operazione Puerto, quindi il cui telefono era collegato al nome di un cane che era, si trovava questo nome, che era poi il suo cane, sì, e hanno trovato sacche di sangue con questo nome, assolutamente tutto a posto per lei, addirittura è stata diciamo eletta al Senato, quindi adesso è senatrice per il Partito Popolare, proverà ad andare alle Olimpiadi a 36 anni ed è ne è uscita benissimo, e come tutti gli altri, meno due poveretti, uno quello che più o meno era il pusher che si è addirittura impiccato, e il povero africano Besabé che è stato beccato mentre cercava di rimettersi del sangue suo che si era già previamente tolto qualche settimana prima, e era col suo allenatore, l'allenatore la passa liscia, e l'altro appunto è quello che si è suicidato, pagano due figure minori e il resto tutto a posto. Politico spagnolo era ovviamente in un discreto imbarazzo, anche perché poi appunto, come io poi scrivevo ieri, c'è una lunghissima lista di nomi che di atleti che sono o che fanno atletica o ciclisti che sono stati puniti in Spagna in maniera lieve, e poi il TAS gli ha regolarmente raddoppiato la pena. Allora, a cominciare da Contador, no? Eccetera, eccetera, Valverde, esatto, no? Ce lo ricordiamo benissimo. Valverde abbiamo dovuto fare la furbata italiana per pizzicarlo, no? D'estate, quando è andato via il giudice, gli abbiamo più o meno fregato la sacca di sangue incriminata e l'abbiamo pizzicato. Per loro era tutto a posto. E questo è il ma adesso anche nel calcio insomma ci sono varie situazioni molto molto poco chiare, però vanno avanti. Però dico, io ieri per esempio su questa storia della Operazione Galgo ho twittato in spagnolo due cose per me molto polemiche, e curiosamente non mi ha insultato nessuno, e questo per me è un dato interessante, perché vuol dire che ci pensano, che lo sanno che le cose non vanno bene, insomma Che poi i vertici mettano la testa sotto la sabbia è un altro discorso, però la base lo sa che le cose non funzionano. Sì, funziona tutto in maniera un po' diversa. Io noto dalle nostre parti, anche volendo, un certo tentativo di spettacolarizzazione della giustizia. Evidentemente ai magistrati spagnoli non interessa essere protagonisti, come lo sono o possono diventarlo quelli italiani. Mi rendo conto che questo è un discorso spinoso e impopolare. Però, era un po' quello che diceva però, ieri anche il ministro. Però noi coi processi sulla pubblica piazza, noi coi processi sulla pubblica piazza siamo bravissimi. Infatti, l'altro giorno le parole di Buffon sono state forti, eccessive, però potevano essere generalizzate, come ha sottolineato poi il vecchio lupo di mare Abete, ad ogni settore dei grandi processi mediatici che si svolgono in Italia. E Abete diceva: vabbè, i calciatori sono molto, molto popolari. E quindi finiscono in prima pagina per queste cose, come magistrati, banchieri, eccetera. La tendenza alla spettacolarizzazione della giustizia noi ce l'abbiamo, questo innato senso dello spettacolo. Sì, sì, e non va bene, questo no. È assolutamente negativo. Però detto questo, è anche vero che qua appunto tante cose veramente non fanno nulla, non sembrano che non gli interessi, anzi poi vanno oltre perché dicono che praticamente loro sono perseguitati perché sono forti e via dicendo, insomma, quando in realtà ci sono una serie di situazioni molto molto chiare. E io ho fatto presente al ministro, dico: come potete voi difendere un ciclista e mettere a repentaglio il mercato della carne, no? La questione Contador, sì. Lui viene beccato perché c'è un filetto che non funziona secondo lui. Bene, allora se il filetto non funziona, c'è il clenbuterolo, vuol dire che c'è la carne poi del paese dei Paesi Baschi non funziona. E loro hanno preferito salvare il ciclista che il mercato della carne. Mi sembra un po' piuttosto grave, insomma. Sì, e lo è. C'è anche un Prandelli che invece dice: agli europei potremmo non andare, però già ovviamente, come è giusto che sia, pensa alla Spagna. Sì, è vicino. Vicino, ma noi lo sappiamo quando siamo in campo. Anche ieri, prima dell'allenamento, abbiamo parlato e abbiamo detto che comunque, al di là di tutte le situazioni che sono fuori dal rettangolo di gioco, ovviamente ne dobbiamo discutere perché non possiamo far finta di nulla, anche perché ci toccano direttamente. Però noi abbiamo la fortuna che comunque per un'ora, due ore al giorno possiamo stare in campo, stemperare la nostra tensione lì, ma soprattutto prepararci per l'europeo, perché sicuramente nel momento che inizierà la partita ufficiale saremo giudicati per quello che faremo in campo. Speriamo che vada così. Le Furie Rosse come si stanno preparando? Ma male, però male. Senza lamentarsi. Perché male? Perché praticamente ieri si sono ritrovati per la prima volta tutti insieme i 23, sì. Perché mancavano 9 giocatori che del Barcellona e dell'Atletico Bilbao, che avendo fatto la finale di Coppa del Re giusto una settimana fa, il venerdì precedente, avevano diritto a riposo e vacanza. E hanno fatto due amichevoli senza questi giocatori, per esempio mercoledì hanno giocato a Berna, titolari c'erano due che poi non sono convocati, poi alla fine hanno finito in 5 su 11 che non vanno poi all'europeo, quindi un po' ridicolo. Hanno vinto bene anche con la Serbia e adesso hanno l'ultimo amichevole domani a Siviglia contro la Cina di Camacho e poi martedì li accompagnerò a Danzica, si parte. Ovviamente è una delle squadre favorite, una delle più forti del mondo. Quest'anno secondo me è un pochino meno forte, soprattutto in difesa, dove comunque ha due terzini normali, che sono Arbeloa e Jordi Alba. È una coppia centrale, Piqué e Sergio Ramos, che uno non va tanto d'accordo, probabilmente non sa nemmeno in che lingua parlarsi, visto che hanno fatto polemiche sull'utilizzo del castigliano e del catalano, e soprattutto Piqué, che viene da una stagione molto molto così, insomma, delicata. Il resto molto forti, gli manca David Villa, che non è uno qualsiasi, perché sai, a me fa anche un po' di diverso, li prendo sempre in giro perché loro hanno vinto il mondiale segnando 7 gol, no? E io gli dico sempre: nemmeno l'Italia farebbe una cosa del genere, ci vergogneremmo. E 5 di questi 7 gol li ha fatti David Villa e lui non c'è. E per cui adesso si stanno attaccando, secondo me, molto forte a Torres, sperando che il Niño rinasca e dimostri di essere poi il campione che era e che si è un po' appannato. Magari sull'onda emotiva della Coppa dei Campioni vinta, sebbene dalla panchina, esatto, però, sebbene da attore non protagonista, allora hanno la forza della consapevolezza, Fierò Filippo. Ma che poi sono fortissime, hanno un centrocampo spettacolare, insomma, è una squadra. È una squadra stellare, insomma, però noi siamo qua, non ci hanno mai fatto gol a un europeo in tre partite, noi ci siamo, insomma. Un'ultima cosa che ti chiedo da profondo conoscitore del calcio inglese che hai frequentato per molti anni, come la vedi l'Inghilterra di Mr. Roy Hodgson? Per me non passa nemmeno il primo turno. Non passa nemmeno il primo turno? No, te lo dico così, poi ci sentiremo. Così Dumbley non passa nemmeno il primo turno. No, prime due partite senza Rooney, adesso hanno perso Lampard, hanno perso Barry, è una squadra mediocre, con un allenatore mediocre, con un portiere mediocre. Insomma, non vedo come possano, voglio dire, il girone non è nemmeno così complicato, però posto se lo prende la Francia, e tra Svezia e Ucraina siamo lì, Inghilterra sono esattamente allo stesso livello, la Svezia senza il mio idolo Guidetti, che attenzione non vale europeo, quindi potremmo forse recuperarlo per la nostra nazionale, magari per il mondiale 2014, ma questo è un altro discorso, e la Svezia ovviamente dipende solo da Ibra, il resto non è che sono un granché, l'Ucraina giusto perché gioca in casa, però per me l'Inghilterra non passa al primo turno. Spernacchiati a casa al primo turno, pensa che roba succederebbe nel Regno Unito. Grazie Filippo! Grazie a voi. Un abbraccio. Grazie Filippo Maria Ricci. Ci fermiamo per una breve pausa e poi continuiamo parlandovi un po', sempre tra queste voci molto pesanti della settimana, però vorrei parlare anche un po' di calciomercato, che non è riuscito a rubare, come sempre accade di questi tempi, il centro del palcoscenico tra un'inchiesta e l'altra, ma è una delle cose che più interessano gli italiani. Non fate finta di niente, aspettateci. E non ci si fosse messa la procura di Cremona, non ci si fosse messo Buffon, non ci si fosse messo adesso Prandelli, sarebbe stata una settimana molto divertente e anche molto così da copertina per il mercato. Carlo Laudisa, inviato alla Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao, un saluto a tutti. Tutti gli italiani hanno voglia di calciomercato e si vedono costretti a tuffarsi nella pattumiera del calcio scommesse, però è stata una settimana di allenatori innanzitutto, con tanti colpi di scena, perché io su Montella, non so se sia proibita questa parola, credo ancora di no, però su Montella alla Roma avrei scommesso qualunque cosa. Sì, però poi c'è stato l'impedimento del Catania, io credo che però Baldini e Sabatini prediligessero l'idea di affidare il progetto a una mano esperta, per quanto sempre sentimentalmente affascinante, no? Perché Zeman evoca il calcio spettacolo e lo abbiamo visto quest'anno a Pescara, per cui io credo che sia stato anche un piccolo stratagemma della Roma per aspettare Zeman, che era obiettivamente impegnato nella rincorsa della Serie A, e quindi quello di Montella poi sta diventando il vero destino, quello in compagnia di Daniele Pradè, che non dimentichiamo l'anno scorso, quando fu il momento di mandar via l'allenatore, puntò su Montella, quindi c'è un rapporto fiduciario ben maggiore, mentre Baldini e Sabatini bocciarono Montella a favore di Luis Enrique. Questo è un particolare che non dobbiamo mai dimenticare per entrare tra le pieghe del mercato, che a volte sembra sorprendente, ma spesso, anzi quasi sempre, segue delle logiche ben precise. Senti Carlo, ma personalmente tu come lo vedi il ritorno di Zeman a Roma? È usato un aggettivo affascinante anche per questo, perché rivedere... Ma ci sono dei rischi secondo te? Con Zeman i rischi ci sono sempre, però l'emblema può essere proprio questo suo rapporto con Francesco Totti e con Daniele De Rossi, che sono i capitani dello spogliatoio, quindi avere dalla sua i fuoriclasse di questa covata di giovani è certamente un elemento a favore, anche perché daranno l'esempio in tutti i sensi, in campo e fuori. Quello che un po' era mancato a Luis Enrique, che evidentemente era stato paradigmatico nelle sue scelte, non aveva evidentemente avuto forse il senso pratico necessario per avviare quel progetto che comunque resta molto interessante, quello della Roma. Sì, certo. Sarà un'estate di sofferenza per Milan e Juventus. Cioè, tu prevedi che continuerà quest'estate di sofferenza per Milan e Juventus? Anche l'altro giorno Ibrahimovic ha detto: i problemi del Milan sono economici, io resto, però volevo dei giocatori, adesso ne abbiamo presi un paio, magari poi ne prendiamo un altro, Però è evidente che le casse societarie non permetteranno grandi acquisti, si continua a sondare, ormai la politica è quella dei parametri zero, dei giocatori in scadenza, dei litiganti, non credo che vedremo un'inversione di tendenza nella politica del Milan, e quella dell'Inter, al di là dell'arrivo di Palacio, non penso possa essere un'estate scoppiettante. Diciamo che la schiettezza di Ibrahimovic ha messo a nudo la strategia di Adriano Galliani, che, non dimentichiamolo, dal 2010 in poi, cioè dopo aver preso Ibra e Robinho, ha fatto di necessità virtù, perché il Milan la politica dei parametri zero l'ha già avviata, e direi anche con successo, a dispetto poi dell'esito finale per lo scudetto. Ma è una continuità. Nel paradosso, il Milan società ha già avviato un processo a cui gradualmente si devono abituare un po' tutti i club italiani, perché le ristrettezze economiche sono un dato di fatto, i rossi di bilancio, il meno 67 dei rossoneri, il meno 86 dell'Inter, il meno 95 della Juve. Non dimentichiamo, la Juve in questo momento sta investendo e sta continuando a investire, perché comunque ha delle basi solide di una società che evidentemente anche con l'operazione stadio si sta portando avanti, ma il problema finanziario si pone per tutti, e il calcio italiano credo che anche in questa vicenda degli allenatori stia cominciando a voltare pagina, perché si cerca anche di razionalizzare l'ingaggio, usiamo questo termine, perché io faccio l'esempio quello di Stramaccioni all'Inter, sì, che guadagnerà 1 milione all'anno, guarda caso guadagnerà in 12 mesi quello che Mourinho, l'artefice del triplette, guadagnava in un mese. Certo, quindi certo. È il segno del cambiamento. La Lazio, che si affida a Petkovic, gli garantisce solo 600.000 euro di ingaggio, il che non è una diminuzione per nessuno, ma forse è un senso di realismo, certo, che mi auguro presto accompagni anche la politica nella gestione degli ingaggi per i calciatori. Certo, è più difficile, perché soprattutto le stelle hanno degli ingaggi pluriennali, e quindi è difficile, se non impossibile, calmierare certi costi, però l'attenzione va posta in una salutare operazione di rinnovamento, che sicuramente porterà delle sorprese, anche delle insidie, certo, ma il passato ci insegna che alla fine, quando si è cambiato, quando si è avuto il coraggio di puntare su nomi nuovi, alla fine il ricambio è sempre stato positivo. Quindi è questa la strada che il calcio italiano deve percorrere, e il mercato in maniera costante sta operando questo tipo di cambiamento. Senti, e questo è il segno positivo, se vogliamo. Senti, toglimi una curiosità: come farà il Napoli con Cavani? Perché è chiaro che Cavani adesso bussa a quattrini e intende monetizzare le due stagioni che ha fatto, mi sembra evidente da molti segnali, però il Napoli ha una politica molto precisa, e quindi si trova di fronte a un'esigenza: o scardina questa politica e accontenta Cavani e quindi inaugura una nuova era, oppure deve Cavani è sul mercato di fatto. Ma io credo che anche le ultime parole di De Laurentiis facciano leva su un'intesa. Resti ancora un anno e poi ti lascio andare. Ecco, io credo che la logica sia questa, a meno che a sorpresa, io credo ovviamente da un mercato straniero, non arrivi un'offerta superiore ai 50 milioni. E qui torna la battuta di Laurentiis: vedere moneta, pagare cammello, no? Sì, sì, sì. E questa la pragmatica soluzione del presidente, certo, del Napoli, che in questi anni ha dimostrato comunque di essere molto abile, di essere molto lungimirante, certo, ma poi sì. Io condivido questa esigenza di De Laurentiis di non farsi troppo distrarre, di comunque di mantenere la politica che ha sempre avuto, quindi secondo me fa benissimo, fa, anche se tutti dicono a Napoli manca il piccolo passo per essere davvero competitivo, benissimo fa De Laurentiis a non alterare comunque una politica che lo ha portato a grandi risultati e una stagione grandissima quale è stata l'ultima del Napoli, quindi da questo punto di vista la mia solidarietà, non so se la tua. Condivido perché comunque poi De Laurentiis è sempre molto pirotecnico nelle sue affermazioni e provocatorio, sì. Però sotto questa anima abbastanza così scoppiettante c'è un manager che evidentemente ha operato benissimo. La salute. Sì. Sì. Grazie Carlo, ci sentiamo. Grazie mille. A voi. Grazie, un abbraccio. Siamo buoni, dunque gli abbiamo lasciato una settimana di tempo per ripigliarsi, anche perché il Giro d'Italia è duro non solo per i corridori, ma anche per chi lo segue e lo racconta. Pieraugusto Stagi, ti sei riposato? Ma sì. Abbastanza, dai. Però sono già pronto, sono già carico per il tour. Senti, ma hai metabolizzato la delusione per come è finito e soprattutto ti sei ricordato che io ti ho detto pur senza scommettere, quindi magistrati all'ascolto, tutti tranquilli, ma poi io posso, ti ho detto il nome del vincitore dopo la prima salita, Vera? Sì. Ma d'altra parte tu eri concorde, se ti ricordi è un po' guai sottovalutarlo, perché comunque questi sono corridori che, sai, quando arrivi settimo al Tour de France può sembrare un risultato di secondo piano, ma il Tour a tutti gli effetti è il mondiale del ciclismo, non manca un corridore, quelli che mancano è perché sanno già di aver perso, e il risultato non era casuale, era un osso duro, un uomo che si è inventato capitano e ha sfruttato benissimo tutte le debolezze, tutte le incertezze, tutti i dubbi, tutte le paure di un giro incatenato da tutti questi da questi paletti. È stato un giro poco spettacolare, che se ne dica. Ecco, appunto, fuori il rospo, è stato un giro brutto, è stato un giro noioso, è stato un giro in cui, insomma, salvo alcuni spot che sono quelli degli ultimi giorni, purtroppo non... Con i corridori italiani non attori protagonisti, ebbene è stato un giro in cui ci siamo annoiati come poche altre volte. Guarda, detto come ho detto, purtroppo non poteva correre diversamente, perché parlo di Ivan Basso è un fondista, quindi che non ha scatto, che fa fatica a fare il cambio di ritmo e quindi ha dovuto spremere la squadra e andare via di regolarità cercando di fiaccare il gruppo. Ha fatto inevitabilmente il gioco di Endetal, che anche lui è un peso massimo, anzi è più alto di Ivan, 1,90 m o con un certo peso, quindi se vai via regolare anche ad ottima frequenza, ad ottimo ritmo, ma senza fare le variazioni di ritmo, lo porti a nozze, infatti l'ha portato a nozze. E chi è che ha sofferto? Scurito Rodriguez, che non è riuscito a fare qualcosa, ma non tantissimo. Un altro che poteva, che era un alleato di Rodriguez, erano Scarponi dello stesso Cunego, che sono più scattanti, hanno quella sparata breve che però può far male, che ti lascia in apnea, e ne hanno fatte veramente molto poche. Pontovivo ha fatto quel bel numero alla Golaceno anche per grazia ricevuta, e poi non si è più verificato nient'altro di analogo, quindi è stato un giro che si è concentrato negli ultimi tre giorni, poi quando in realtà Ivan ha scoperto di non avere quel colpo di pedale che lui sperava di avere, anzi ha subito la corsa, ha subito la forza di Endetal e dello stesso De Gendt, dello stesso Rodriguez, che comunque si è difeso per le caratteristiche che aveva e molto molto bene. Noi italiani invece abbiamo perso su tutta la linea, cioè ci è andata male, non ci sono stati corridori di seconda fascia che hanno usato, e quello ancora di più è l'aspetto negativo, perché bisogna, soprattutto dei giovani. Beh, qualcosa si è visto, però Rabottini è stato bravissimo, ed è detto perché è un direttore sportivo capace e sanguigno. Per me è il Carletto Mazzone del civismo, che è Luca Scinto, è uno che va al sodo delle questioni, parla al cuore dei corridori, soprattutto sa lavorare benissimo con i giovani e quindi ha mandato all'attacco i suoi ragazzi come pochi. Per dirti, la maglia bianca, due giovani del Team Sky che sono venuti al giro per fare esperienza, come Urano Ran piuttosto che Enao, mi aspettavo molto di più, perché correre per il piazzamento, per dire sono arrivato a sesto prima dei giovani, non conta assolutamente niente, perché sono andati in carrozza, hanno perso su tutti i terreni, non hanno mai osato, e sono queste le figure che poi rovinano lo spartito di un Giro d'Italia, perché se fossero stati più coraggiosi magari avrebbero cambiato anche il volto dello spartito generale del Giro d'Italia. Certo. Invece ognuno ha guardato, Asso guardava gli ultimi tre giorni, Ezebel, poveraccio, aveva il punto di domanda grande come una casa e quindi non sapeva se avrebbe tenuto i grandi salitoni, quelle oltre 2000 metri, e Scarponi non era al meglio della condizione, quindi andava un pochino col freno a mano tirato. I giovani non hanno provato, Iegulissi, che è uno dei nostri migliori elementi, era al servizio di Scarponi e di Cunego. L'unico appunto, come abbiamo detto, è stato Rabottini che ha cercato di fare una cosa fuori dagli schemi. Diciamo che non è stato il giro dei coraggiosi. No, per niente. È stato il giro dei ragionieri, con tutto il rispetto per la categoria, però veramente banale, prevedibile, assolutamente poco spettacolare. Poi alla fine è un peccato perché ecco perché il Tour de France è un'altra cosa. Ecco, sì, perché anche nelle 10 tappe noiose, ma anche il Tour è verissimo. Però intanto una fuga prima di andare via ci impieghi 2 ore che vanno a 60 all'ora e poi magari riesci ad andare via, cioè ti finisco. Certo, a livello spettacolare uno si hanno, però e poi hai talmente tanti campioni che il giorno ti vince Philippe Gilbert, l'altro giorno ti vince Fabian Cancellara, l'altro giorno ti vince Petacci, cioè, vincono grandi nomi. Vincono le superstar, naturalmente. Quindi l'errore qual è stato? Infatti, il giro che mancava, una vera tappa di quelle che ti obbliga il corridore a uscire allo scoperto al quinto o sesto giorno, ma di quelle toste che rompono la classifica e quindi magari ci rimane nella rete, rimane uno o due grandi big che sono costretti a recuperare e quindi saltano le marche. Esatto. Magari un'altra bella tappa nella seconda settimana e invece di metterne 4 da tramortire come l'ultima che dicono l'hanno scelto gli appassionati, ma mettere il Mortirolo con lo stelvio è un insulto al Mortirolo allo stelvio. Certo. Il Mortirolo uccide lo stelvio o viceversa. E infatti così è accaduto. Bisogna magari mettere il Mortirolo al terzultimo giorno e lo stelvio il giorno dopo. E certo, perché non basta mettere in fila delle grandi montagne per fare una grande corsa. Metterle tutte lì in vetrine, dirà... Ma gli organizzatori hanno scoperto questa bellissima idea, no? Che è quella di Cassius Follower, diteci che tappa volete, disegnatela voi, ma vi sembra normale? io dissento. No, perché ognuno deve fare grosso modo il mestiere suo. Grazie Pier Augusto, io devo chiudere, ti ringrazio. Tanto ci sentiamo per tutta l'estate e con il Tour de France ormai alle porte. Ci fermiamo qui con questo Sabato dello Sport. Grazie a Giorgio Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia. Buona giornata a tutti, ciao.